questo non è un corteo, perché va un po' più lento, si sentono i singhiosi, da lontano un lamento, questo non è un corteo, c'è troppo silenzio, Valerio dove sei, l'avevo ognuno dentro, questo non è un corteo, ma neanche un funerale, stavo tutti a pensare quanto sta vita vale, in questo strano giardino di fiori e di morte, rimbombano gli slogan, speranze non risorte, il fumo dei lacrimogeni si fa sempre più acre amaro, pagherete tutto, sì, pagherete caro, camminando sulle tombe di morti senza storia, ritorna il ricordo, sì, ritorna la memoria di vecchi partigiani e di grandi imprese.